Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno se ci state ascoltando di prima mattina, buon fine serata se ci ascoltate in coda e in replica alle 20:45. Subito la mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, o lo trovate attraverso un motore di ricerca. Allora, chi ci segue sa che noi non affrontiamo casi personali. Continuano ad arrivarne moltissimi in redazione, però la maggior parte non possiamo prenderli in considerazione perché interesserebbero soltanto il caso singolo. Di tanto in tanto, però, come promesso, noi prendiamo alcuni casi anche singoli che però possono rappresentare, come dire, problemi vissuti da una platea più ampia di contribuenti, di cittadini, di radioascoltatori. Ed è il caso appunto che affrontiamo oggi, che vede da una parte un lavoratore che tra l'altro si trasferisce da una regione all'altra, e dall'altra parte invece abbiamo un pezzo importante delle istituzioni dello Stato italiano, perché è l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Per questo io do il buongiorno e il benvenuto al nostro radioascoltatore che ci ha scritto la mail da Brescia, Gaetano Fenech. Buongiorno Fenech. Buongiorno, buongiorno a tutti. E do il buongiorno e il benvenuto al responsabile del team della comunicazione dell'INPS Sicilia, Mariano Cangialosi. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, Cangialosi. Allora, Fenech ci ha scritto una lettera descrivendo la sua situazione come una situazione grottesca a dir poco. Riceve nel 2006 un invito dall'Agenzia delle Entrate di Brescia 2, ma in realtà noi, dopo aver contattato l'Agenzia delle Entrate di Brescia 2, che ringraziamo per la collaborazione, scopriamo che in realtà l'interlocutore di questo radioascoltatore, ma la sua situazione che probabilmente si ripeterà o si è ripetuta per chissà quanti di voi, l'interlocutore, dicevo, in realtà è l'INPS. Allora, Fenech, può raccontare la sua storia grottesca? Sì, allora, a me nel febbraio del 2006 mi è stata notificata una cartella esattoriale per contributi non versati, dovuti e non versati, da parte dell'INPS di Palermo, che io ho provveduto a pagare dell'importo di 10.800 euro. Si è evinto in quel momento, da parte del mio commercialista, che c'erano degli altri ruoli ancora che dovevano essere, come dire, appunto messi a ruolo, e allora noi abbiamo chiesto, visto che io ero nella disponibilità economica di poter chiudere questa partita, di poterli saldare, ed è stato generato da parte dell'INPS di Palermo un code line con F24. Ecco, te spieghiamo che cos'è, perché altrimenti i nostri ascoltatori non ci seguono. Che cos'è? Di fatto l'INPS non dovrebbe in teoria accettare, perché a Brescia non lo accettano, per esempio, pagamenti di contributi con F24. Questo code line sarebbe una posizione dove, con pagamento attraverso questo modulo, loro mi hanno messo giù la cifra, diciamo così, che io dovevo, e io l'ho pagata attraverso ufficio postale. Quindi lei, per quanto la riguarda dalla sua posizione, avrebbe chiuso la sua partita con l'INPS versando 10.800 euro più quello che rimaneva. No, i 10.800 io li ho versati con bollettino dell'Equitalia e Satri. Ok. Erano a ruolo e sono stati versati da Prassi. Siccome c'erano degli altri, tra virgolette, debiti da parte mia nei confronti dell'ente impositore, noi, essendo io nella disponibilità economica e quindi non aspettando ulteriormente la messa a ruolo della cartella, quindi con ulteriori costi, oneri e quant'altro, abbiamo chiesto di avere fatto un conteggio e poter versare in autonomia, quindi prima ancora che venisse erogato il ruolo, questa somma. Quello che mancava. È stata versata con F24, tecnicamente viene chiamato code line. Cioè, comunque lei tecnicamente ha chiuso la sua partita con l'INPS per quello che le riguarda. Io in quel momento, il 24 di aprile mi sembra del 2006, ho chiuso la mia partita per quanto riguarda questi ruoli e per quanto riguarda, diciamo così, tutto quello che era dovuto all'INPS di Palermo, perché io nel frattempo mi sono trasferito a Brescia, ho cancellato la mia posizione a Palermo e l'ho aperta a Brescia. Benissimo. Nell'aprile del 2008, circa un anno fa, che cosa succede? Beh, no, diciamo che, mi scusi un attimo, facciamo un passo indietro. Il 9 settembre del 2007 arriva la notifica esattoriale, quindi la cartella, in relativa a questi 10.160 spicci euro che io ho versato un anno prima. Benissimo, però arriviamo all'attualità perché altrimenti non riusciamo a sentire la voce dell'INPS. Va bene. Allora, detto questo, a settembre del 2008 arriva direttamente a casa mia un sabato mattina l'iscrizione ipotecaria sul mio immobile che io avevo comprato 2 anni fa, in relazione appunto a una cartella generale, ovviamente non c'era solo il ruolo dell'INPS, ma dove, diciamo, la parte preminente, il valore più importante, diciamo così, di questa cartella erano questi 10.000 spicci euro che l'INPS ancora mi chiedeva. Benissimo, quindi diciamo così c'è stato quantomeno un difetto di comunicazione. Immagino la sua sorpresa quando arriva l'accensione di un'ipoteca per 25.000 euro sul suo immobile, perché appunto lei avrebbe ancora dovuto versare soldi all'INPS. Allora, poi cosa accade ancora di grave? Per onestà intellettuale, anche c'erano degli altri ruoli, però di un importo relativamente basso, dove normalmente non si opera con iscrizione ipotecaria. Ecco. Benissimo, no, ma infatti lei la sua onestà intellettuale nessuno la mette in dubbio. Ci sono altre cose che vorrebbe sinteticamente dire prima di parola? Praticamente nel 2007 noi poi, quando abbiamo ricevuto questa cartella, siamo andati a farci protocollare all'INPS di Brescia, quindi io ho un protocollo che è data 11-2007, dove effettivamente si diceva e si evinceva che io comunque avevo già pagato questi soldi, e infatti c'è di domanda di compensazione tra crediti e debiti. Quindi questa cosa è già stata evidenziata più volte all'INPS. Ecco, infatti, allora quindi diciamo insomma che ci sarebbe, e adesso sentiamo Cangialosi, un difetto, diciamo, nel ricevere la comunicazione da lei correttamente data da parte dell'INPS. Ma sentiamo a questo punto la parola dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Cangialosi, prego. E allora, per quanto riguarda un pochettino le cose, non è che siano proprio in questa maniera. Prego. Praticamente è successo questo, che il signor Fene, nel 2004 era stato notificato un F24 per un importo della contribuzione che doveva pagare per l'anno dal 98 al 2004, perché dato che il signore non aveva dichiarato la sua attività, eccetera, sono stati i nostri ispettori di vigilanza, che con verbale ispettivo del 21 marzo del 2003 hanno effettivamente visto che il signore non aveva versato questi contributi. Quindi mandiamo questo F24 con le quattro scadenze che avrebbe dovuto pagare per un importo di circa 19.000 euro, però l'interessato non li paga entro il 2004 e il 2005, bensì li paga successivamente. Ecco, Cangialosi, mi scusi. Una viene pagata nel marzo del 2006 direttamente al concessionario e l'altra invece successivamente viene pagata direttamente con F24. Ecco, dottor Cangialosi, mi scusi se io lo interrompo. Come è stato pagato, va benissimo, lo ha ammesso anche il nostro contribuente. Io vorrei arrivare però al punto stringente che interessa il nostro radioascoltatore, ma in realtà migliaia di altre persone, altrimenti non avrebbe motivo di essere affrontato il caso del singolo. Vale a dire, ma voi riconoscete che alla fine comunque c'è stato e il pagamento e la comunicazione di quanto dovuto, e dunque c'è stato un difetto, come dire, nella comunicazione tra voi e il contribuente, oppure non c'è stato questo difetto di comunicazione? Sì, mi scusi, dicevo questo, l'INPS di Palermo praticamente nel momento in cui si è reso conto che effettivamente 10.838,93 euro erano stati pagati, sì, ha provveduto direttamente a mandarli alla Satres di Palermo affinché li comunicasse alla sede di Brescia, della Satres di Brescia. Sì. Cos'è successo purtroppo? Ma diciamo che non è una cosa da addebitare all'istituto. La Satres di Palermo, invece di comunicarlo in tempo utile, l'ha comunicato come circa un annetto di ritardo alla Satre di Brescia. Quindi il concessionario della riscossione di Palermo l'ha dato in ritardo a quella di Brescia. Che si è generato che è stata praticamente fatta questa ipoteca che non doveva essere fatta. Ecco, ma adesso la situazione. Per quanto riguarda le spese, difatti questo qua è quello che volevo dire al signor Ferro. Prego. Se lui già ha pagato i 1.600 euro per quanto riguarda l'ipoteca. Sì. Questi qua ovviamente, siccome praticamente è vero che non si tratta di una colpa di istituto bensì della SAPES, però diciamo sempre noi responsabili, allora provvederemo ovviamente a rimborsargli questi 1.600 euro che lui ha pagato. Ecco, perché ovviamente ha pagato 1.600 euro per estinguere un'ipoteca che non avrebbe dovuto essere accesa, come giustamente lei ha ricordato. Cangelosi, ovviamente io non ho motivo di dubitare del fatto che l'INPS qui non abbia avuto responsabilità su questo difetto di comunicazione da parte del concessionario della riscossione di Palermo, ma mi toglie una curiosità: perché in Italia è sempre colpa degli altri? Ma guardi, questo qua ci sono gli atti, noi l'abbiamo mandato praticamente già nel 2007, avevamo mandato già la comunicazione di sgravio alla sede della Satres di Palermo. Abbiamo gli atti, quindi non avrei alcun motivo per dirvi una cosa. Va bene, allora purtroppo queste cose spessissime volte, anche perché era abbastanza ingarbugliata, perché il signore una parte l'ha pagata direttamente dal concessionario, un'altra parte l'ha pagata direttamente con F24, quindi ci sono stati anche degli, sì, diciamo, sono stati pagati anche in ritardo questi queste, c'è da dire che comunque cartelle. C'è da dire comunque che almeno onore all'onestà intellettuale del radioascoltatore contribuente che ha fatto di tutto per mettersi in regola. Allora io ringrazio ovviamente Cangelosi dell'INPS, il nostro radioascoltatore, in regia Fabio Cantadori, in studio Francesco Di Bruno e Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.